Mom always said there's an awful lot you can tell about a person by their shoes. Where they going? Where they been? I've worn lots of shoes. Per qualche strano motivo, per qualche inspiegabile motivo, io mi ritrovo con dei dischi all'interno del mio borsone nero che rimangono lì, pronti per essere trasmessi e poi trasmessi non sono. Chissà per quale motivo, magari sono distrazione, disattenzione o un cattivo posizionamento che non li fa saltare all'occhio. È successo per esempio nelle ultime settimane con il nuovo album dei Blonde Redhead. Vedo così di aver rimediato un pochettino, credo di aver rimediato un pochettino avendoli trasmessi per primi in questa settimana. Poi siamo andati a riascoltarci, visto che non è la prima volta, i 120 Days, formazione di quattro elementi norvegesi che si sono formati nel nord della Norvegia per poi trasferirsi ad Oslo nel 2001, però fino a quest'anno non erano ancora riusciti a pubblicare un album d'esordio. L'hanno fatto e, come tanti, avete avuto modo di verificarlo fino a qualche secondo fa, sono innamorati delle atmosfere musicali degli anni 80. Eclettica che prosegue con il side project dei Mongol Fear Brothers, ovvero sia Atween Two Birds. As the sun rose up into the sky, and all I could hear was birdsong. And the hackneyed tones of Radio One, I knew something was wrong. And as I lay and tried

though those eyes that mouth Dichiarazione di un soldato. Rendo pubbliche le mie opinioni, come consapevole atto di sfida alle autorità militari, perché penso che la guerra venga volontariamente prolungata da coloro che avrebbero il potere di porle termine. Sono un soldato e credo di parlare a nome dei soldati. Ritengo che questa guerra, cominciata come guerra di difesa e di liberazione, si sia trasformata in guerra di aggressione e conquista. Credo che i propositi per i quali io e i miei commilitoni ci siamo arruolati avrebbero dovuto essere espressi con chiarezza, in modo che divenisse impossibile modificarli e che, se ciò fosse stato fatto, gli obiettivi da noi perseguiti apparirebbero ora raggiungibili per via diplomatica. Questo era l'incipit di Rigenerazione di Pat Barker. Now, when I was a baby, Mama named me after the great Civil War hero, General Nathan Bedford Forrest. She said we was related to him in some way, and what he did was, he started up this club called the Ku Klux Klan. They'd all dress up in their robes and their bed sheets and act like a bunch of ghosts or spooks or something. They'd even put bed sheets on their horses and ride around. And anyway, that's how I got my name. Forrest Gump. Mama said that the forest part was to remind me that sometimes we all do things that, well, just don't make no sense. Bimbi frequents our man to leave to see chimney agents. Smiling.